Colonne di fumo, sciacalli ed eroi, il sangue versato per un'altra bugia. Questa guerra infinita tra cannoni e trofei, un cuore di madre devastato urla per noi. Nella follia, menti plagiate.